passato l'uragano. Bene, il tuo sogno da Alghero. Poi io non mi sono accorto di niente, ma insomma sono andato a prendere la mia figlia all'aeroporto adesso. Lei è arrivata mezz'ora di ritardo perché hanno ritardato il volo proprio per questa perturbazione. Non vorrei era. Ma per me mi ha caricato l'ultima recensione che ho fatto, quella in legno, quelle griglie, insomma, si fanno in legno. Quindi non mi ha scritto, ma te l'ho posto poco fa. Allucinante, tutte le sedie volando, un casino. Ma solo lì è venuto, perché qua non me ne sono neanche accorto già, è claro. Vabbè, l'altezza vuol dire molto, qua è l'oceano dove sono. Evidentemente l'ho preso in pieno, ma l'imbeccio pieno, all'imbeccio pieno, proprio minchia, secondo me è un raffica a 100 km orari. Allora, l'aeroporto di Alghero ha capottato uno di quegli ultraleggeri, di quei Piper, l'ha capovolto. Tutti gli alberi, infatti c'era l'ananas, un pezzo di tortubella, tutti gli alberi in terra, me ne avevo con il macello. Allora io sono arrivato appena, probabilmente era appena finita. L'imbeccio, esatto, ma passata l'imbeccio a raffiche allucinanti. Vabbè, invece non temo più il maestrale, guarda, è un casino. Ma è un evento raro, perché deve essere passata proprio nella zona tua, qua non l'ha toccata, perché cacchio, se sale su, io ho le antenne pure, quelle grosse, devo stare attenta, anche se sono super collaudate, però mai fidarsi. Buonasera. Buonasera anche a lei, c'è anche Claudio, ciao Gianfranco, avanti Claudio per Gianfranco. Ciao Gianfranco, buonasera, ben riascoltato. L'imbeccio faceva leva, il vento caldo, ma raffiche fortissime. Vabbè, comunque danno non mi ha fatto, no, alberi io non ne ho, giù sì, nella vallata ci sono, ma l'unico che mi ha fatto è mi ha buttato giù quella grigliatura che avevo fatto per separare appunto la veranda. Vabbè, comunque l'ho rimessa a posto. Va bene, dai, continuate, io non ho voglia, no, a me sta radio, più sta andando e più me ne sta scendendo. Dai, comunque non anche in ascolto, Gianfranco, riprendi tu, se mai rientro dopo, ok? C'è la partita, Clame. Gianpieno, anche perché, fortunatamente la 500 si è salvata, però il tubo è andato, quindi in questi giorni lo posso sostituire. Resta aspettare un tirante di forza e a tagliare e quindi a inclinare l'antenna, che è ancora in piedi, però è mezza capottata, tutto il tubo, la sottina è capottata. Era forte, è durato poco, quattro colpi ben assestati. Sto dicendo, glielo faccio, che non era a 100 km orari, perché non ho mai visto un vento così. Cioè, per tanti anni ho abitato a Carbonazzi, era molto alto, qua è molto più alto, già lo sa Roberto, abbiamo già misurato, sono circa 200 metri in più, però ti dico che cazzo, ma veramente forte, fortissimo, vabbè, comunque, abbiamo messo tutto a posto, va bene così, dai, va bene, sì, adesso me la guardo un pezzettino, mi pare ci sia Roma Lazio, così è. Cosa è iniziata? 2-1 sono vincendo la Lazio, 2-0 adesso ha segnato la Roma, ce l'ho sul cellulare sottofondo. 2-1? Sembra anche una bella partita, io l'ho vista già iniziata, ho guardato col replay, mi ho guardato il gol, bei gol hanno fatto la Lazio, adesso ha segnato di testa la Lazio, la Roma, sta però sempre attaccando, va arrivato il secondo gol a Roma. Ok, ma Gianfranco, no, ma a me qua deve essere non è passata dalla parte mia, io non mi sono accorto di niente. Beato te, io me ne sono accorto come, perché qua è iniziato a sbattere tutto, a sentire rumori strani, mi ha portato via quasi una pensilina. Ripeto, erano colpi a raffica, penso che abbiamo superato abbondantemente i 100 km orari. Pochi colpi, ma da fuggire. C'è il tubo inclinato, adesso speriamo che regga e nei prossimi giorni tocca abbassare tutto. Due palle, cavolo, poi lavoro pericoloso, anche una le scatole piene. Queste X500 sono una penitenza, guarda. Infatti già una l'ho sostituita con la 300, è molto più leggera, molto più resistente. è tutto. Io non attesto più di quelle antenne, ho la XC50 e va bene lo stesso, i punti li cito tutti, ho una bellissima ricezione, forse perché sono aperto, la zona è buona, però no, non ne monto più di quelle antenne. La Mantova ha preso delle raffiche allucinanti, l'ha piegata in due. Fortunatamente avevo tolto la J-Pol perché sto facendo dei lavori, quindi l'ho tolta di nuovo. Adesso vediamo se piazzarla definitivamente. Se ci fosse stata la J-Pol dov'era per fare le prove che ho fatto, avrei trovato la Ginara come minimo, cazzo. Veramente. Vabbè, dai, io comunque sono qua, devo anche in ascolto e magari ci sentiamo dopo e faccio qualche cosettina ancora fuori e poi magari ci sentiamo, dai. Ok, vai Robè. Ehi, ok, lasciamo un attimo del bianco, vediamo se entra qualcuno, ci lasciamo qua, fra, quando vuoi. Allora ti vuole entrare qua su 10? Niente, comunque già fra, io sono andato a prendere la mia fila, dovevo arrivare alle 4:30, sono qui in piena tormenta, l'aereo è partito con mezz'ora di ritardo e loro non l'hanno beccato. E poi c'erano tutte le nazionali, siccome c'è il campionato mondiale di quelli tennis in carrozzina, c'erano business arrivati da Sudafrica, da Turchia e dagli Stati Uniti, adesso via Roma sono arrivati, non era bocca di niente. Però ho visto tutto distrutto, ne ha capovolto uno di quegli aerei super leggeri, quei Piper, l'ha proprio capovolto. Tutta la strada c'era l'ANAS raccogliendo pezzi di alberi, quel pezzo di Tutubella, ma qua ti ripeto, io non mi sono accorto di niente a casa mia. Perché questi a volte sono. Risparmiano una parte e pizzicano l'altra. La Grimaster invece, nonostante tutto, si è difesa bene, spiegava, si è piegata la paura, però come vedi ha retto in maniera elegante, è rimasta anche, non dico dritta dritta perché il palo l'ha sotto, ha sotto il passetto, però almeno è perfettamente funzionante. Anche tutte le altre sono tutte funzionanti, l'unica cosa è questa voce da 7000 che se l'è presa col palo, tanto per cambiare, ed è una cosa che inizia un po' a pesare, non è che ti devi fare 10 metri di radice, sganciare tutto, abbassare con l'argano, wow, è una disperazione. I dipoli, neanche il pelo le ha lisciato, il dipolo è un'antenna, guarda, da tenersi stretti veramente. Infatti, quando sono troppo alte, verticali, sottili, io ne avevo una, quella PKV, quella che fa 5 mante, ma bastava una folata di vento e si troncava in due, infatti me l'ho buttata giù, infatti sicuramente la vendo a qualcuno che interessa, è troppo grande, l'antenna enorme. Io ho quella a terra invece che in alluminio aeronautico, multibanda, infatti la sto usando adesso sui 21, ci sono gli Stati Uniti, c'è proprio visto anche, cioè, non era, anche quella non le ha fatto un tubo, vabbè che a terra, a livello di terreno, però non le ha fatto niente, è molto alta, l'ha piegata, sì un pochino, ma non è cosa da rompere, guarda, è fatta proprio in maniera professionale. La scocciatura, perché queste diamond che stanno uscendo, anche se sono originali, comunque si vede che non sono fatte proprio come la volta. Comunque, vabbè, tanto già ce ne l'antenne. È importante avere sempre le sostitute, no? Io l'avevo più questo nel bianco, quelle grandi, quelle paraboliche, quelle grosse, che pesa solo l'antenna senza il motore, pesa 40 kg di antenna e altri 40 kg di motore, perché c'ha quei motori a coso, a cardano, grossi, sono di vecchia concezione, ma sono indistruttibili, solo tu devi sentire i contraccolpi che da boom, boom, non c'è il metallo forte. E poi c'è quella in alluminio, quella della Fraccaro, anche quella di buona costruzione, meno male in alluminio, solo sarebbe già volata 10 volte con l'antenna. Purtroppo è così. Io ho un fusto per metterci dentro, ma un'antenna che di quella è un fusto, una vale, quella è il vento si attacca al tramo, penso che regga quell'asta lì fino a 200 km orari anche. C'ha infatti un attacco nautico anche sotto, però è troppo, si andrebbe bene anche sull'HF. Però non ne ho voglia, cioè il gioco non vuole la candela. E poi ce n'è tutte le bande, sono tutte ogni banda. quindi vanno bene così. Però ogni volta che c'è un temporale ho cosa sto cazzate lì, guardando fuori, controllando, mamma mia. Lì la Valter, cos'è, l'inverno scorso, che danni gli ha fatto quando è passato con la tromba d'aria di punti? Ne ha scoperchiato il tegolo del tetto, ne ha portato via tutto il tetto. Ci sei già pronto? Sì, stavo controllando una cosa, sapere cosa era un altro tizio. E niente, quindi insomma andiamo bene anche sugli Stati Uniti, da. Sì, l'ho saputo anche quello, purtroppo sono antenne grandi, grandi, grandi, e oramai ci dobbiamo mettere in testa che il sistema è cambiato. Arriva così, sembra bello, magari sei anche tranquillo al mare, in spiaggia, 5 minuti dopo per portare via anche la macchina, basta vedere cosa sta succedendo anche negli altri paesi, cosa è successo in Germania, non parliamo neanche degli Stati Uniti, perché è scontato, è un disastro, guarda, un disastro. Sì, ma poi quest'anno è stato un anno più caldo, diciamo, del secolo, degli ultimi 100 anni, almeno. Poi tutta l'evaporazione dell'acqua che è successa, tutto questi incendi, questo cavolo di cose, da qualche parte deve finire questo vapore acqua, si scontra con le perturbazioni fredde e succedono i patatrac. Noi non siamo abituati a subire queste cose, magari in altri continenti è una cosa normale, però noi che non siamo abituati, massimo lo senti 70-80 km orari il vento, ma a 100 km orari tutte le cose, le strutture nostre sono in crisi. Sì, ma comunque struttura europea sarebbe in crisi, non è che non sono portatelle da niente. Noi anzi siamo fortunati che le nostre case sono tutte in coso, in centro armato e così via. Così nelle strutture che c'erano nel legno per portare via quanto c'è. E guarda, io sono uscito, dopo che abbiamo finito noi, è stata una mezz'oretta dopo, sono uscito fuori eccetera e mi sono cancarato dal vento caldo che c'era, sembrava roba al deserto, ha piovuto anche un pochino, ha ridotto le macchine in fango e guarda, una cosa, sembrava che ci fossero asciugacapelli in funzione, mi sembra stesso asciugacapelli che stava andando a tutta birra, una cosa, guarda, micidiale. E poi c'è stato ovviamente l'incavolamento del vento che è diventato fortissimo. Pensavo al Alghero, a mare di Ticiano, perché lì invece entra in pieno, è un mare che entra alla spiaggia, cosa ha combinato con la, oppure giù al Poeta, se l'ha portato via tu. Anche perché è un po' di bianco, c'è qualcuno che può mettere? No, niente, io ho messo anche un po' di squelcio perché c'è parecchio rumore di fondo, stranamente, chissà cosa sta arrivando. Ed è così, sempre spese, in tubi, perché i tubi insomma sono abbastanza resistenti, ma l'altra volta mi ha piegato anche il Dalmine, cose mai viste, ma quando mai? Quindi, non fanno, ne arriverà chissà che cosa, perché non butta tutta a terra, buonanotte. Che adesso tu il vento, non sei mai sicuro di niente, puoi avere il traliccio, non che ti fai un cilindro in cemento armato, tipo la Rai a Monteoro, che forse con quello già ne regge di vento, se no ti fa danni, ho visto delle cose, delle strutture enormi fatte da professionisti, buttate in terra come fuscelle. Sì, perché sono le raffiche, che durano anche pochi secondi, però sono delle botte micidiali. Se fosse il vento forte, molto forte anche, che ti lascia l'antenna piegata, d'accordo, ma questo è un martello, è una massa che batte sulle strutture. Mi ha anche buccato una pensilina in plastica, figurati, la stava portando via, ma invece è rimasta lì, però sta sfasciata, sta partita. Dopo che abbiamo chiuso l'ora di pranzo, avevo riacceso su 26690, ma non c'era più niente di quel segnale. Infatti, anch'io ho controllato e non c'era più nulla, quindi avranno finito le loro esercitazioni probabilmente. Chissà cosa era. Io l'ho controllato, lo stesso erano due toni che e quindi che è successo? Si sta andando due toni che si alternavano e niente, e con questa, quindi doveva essere qualcosa di particolare. Intanto se ne scoprì una qua. Sì, lo so. Poi, se ti metti a cercare, guai, chissà cosa c'è in giro, da tutte le bande, fino a salire su le bande delle microonde. Vabbè, ma quelle sono un pochettino più, come dire, non dico noiose, ma scontate. Invece un HF, ognuno ha la sua, capite, sono tanti di quei sistemi, da paura. E niente, quindi rimane comunque il coso di, come si dice, il posto d'avventura più pregiato. Ho letto, quando era avanti ieri, rapporti dell'ente europeo, di cui fa parte anche l'Italia, delle intercettazioni, no? Perché come sai ci sono le stazioni di controllo a livello europeo e stanno tenendo fortemente d'occhio tutte le bande aeree da in HF e anche quelle in VHF, insomma tutte quelle sensibili, quelle navali, secondo le direttive del dito, e poi c'era anche il report degli abusivi. No, ne hanno pizzicato parecchi, non è che non fanno notizie, però c'è il coso, come si chiama, il prospetto anno di intercettazioni, ed è insomma è notevole. Sì, me lo immagino. A chi è che non riescono a beccare quei pirati brasiliani? A quelli non li beccano, o non li vogliono beccare? Per certi punti di vista sono rompipalle, è vero. Sotto altri aspetti, per quello che ho visto, mi auguro che mettano la testa a posto, perché ho visto, ci sono dei filmati in cui si fanno le perquisizioni che le fanno, ma ne tracciano tutto, cioè li pigliano con la garotta e li sbattono a terra, lo sai come funziona, no? Non è che ti vengono col mandato, non frega niente, si sfondano la porta, chi c'è ne esce preso a manganellate nel latte, se non peggio, e ti stracciano tutto quanto. E in Brasile non so come da noi, che deve esserci il giudice che deve darti l'autorizzazione, ti suonano il campanello, per favore apra la porta, piano piano, eccetera. Si rientrano e facciamo tutto. No, ma questi brasiliani, perché fanno anche con satelliti, cioè cose molto particolari, nel senso ci vuole competenza per fare quel tipo di operazione. Ma per quello che riguarda l'occupazione dei satelliti militari, quelli vecchi della classe UFO, e comunque fino a un paio d'anni fa li utilizzavano anche per l'ammalaggio di navicelle spaziali, quelli lì insomma erano relativi. E il problema è che se tu controlli le frequenze in quell'ambito sono sempre le stesse, non è che solo perché c'è un satellite vecchio la frequenza è libera, no, perché c'è l'altro che opera sempre su quella banda. Tra l'altro la banda col settore lì si attesa dai 240 ai 300 e spiccioli. Quello lì è primario militare, quindi per loro è importantissimo. Tutti i satelliti che avanzicano, avanzicano di lì, oltre a quelli trasponder in altissima frequenza. Però quella lì serve come punto tattico, capito? E quindi questi vanno lì, però vanno solo sui vecchi, perché i nuovi già lo so, sono tutti digitali, ultra criptati, e chi ne spina ne ha, chi ne metta. Sento un fischiettio, Gisafra, quando stai parlando, qualche cosa vicino c'è? Sì, non so se ti ha fatto dall'altra radio, che c'è il telex attivato, poi come ti ho detto sta facendo ascolto e... c'erano delle stazioni, anzi ci sono delle stazioni americane che stanno facendo sempre chiamata. Ho tentato di risponderle e non ci sono riuscito, perché adesso tu mi dirai che sto rincoglionendo, è vero, e sto rincoglionendo come una campana, perché ero mezz'ora cercando la serie. seriale, di impostazione, eccetera, eccetera. In realtà la seriale c'era già, ero io che non attivavo la modalità data. Cioè, guarda, è allucinante a volte, in casa di per una fesseria. Aspetta, facciamo un attimino di bianco, che vuole entrare avanti su 10, pensavo che oggi ci fosse qualcuno, considerando che la giornata non era male, invece poca gente, dai, riprende già fra. Sarà ancora peggio, ora che iniziano le partite a Puglia, comunque non dà fastidio il rumore di fondo. No, non dà fastidio, ma si percepisce, dai, non è forte forte. Potrei anche disabilitarlo. Niente. Per i miei gusti sono un po' troppo lenti, no? A 42 byte lui funziona ovviamente, però è troppo basso. Ma c'è qualche radio tu interfacciata al computer, tornando al discorso di stamattina? Come interfacciata? Io ho tutto, sia di gestione sia di... ci sono qua, 1, 2, 3, 4, sono 4 apparati tutti collegati contemporaneamente al computer, puoi scegliere dove andare, dove fare, cosa necessitare e così via, è completa, capito? Sì, no, dico, volevo dire al monitor, non tanto il computer. Al monitor attualmente ci ho accesa solo quella... quella HF che sta ascoltando sul fondo, poi c'è questa, le altre due sono a riposo. Quel famoso 950 di cui abbiamo parlato spesso, quello lì ce l'ha, non ho mai visto se c'è l'uscita seriale per attaccarlo al monitor. C'è un'uscita seriale che serve però per la programmazione. Ah, solo programmazione, non puoi per dire ampliarti il campo visivo del display? Ma non credo, forse la luminosità solo, ma credo che la fai anche dal display. Mentre il coso, il 2000 è previsto. Dunque, nel 2000 cosa faceva? Ne ho avuto talmente tante che è quasi impossibile ricordarlo. Il 2000 fa come programmazione, allora c'è innanzitutto il programmino per le memorie, che è sempre utile, che non mi ricordo quale ovviamente, e poi c'è il controllo della radio tramite computer, quindi praticamente cosa puoi fare? Ti appare la schermata con una radio virtuale, diciamo, la puoi accendere, spegnere, può essere utile per un controllo a distanza, anche come oramai ci hanno tutte le radio dal fronte. Però quello è molto fatto bene, è carino. Quindi è già previsto direttamente senza nessun software? No, ci vuole software, la radio. Non mi ricordo com'era quello della Kenwood, ma lo puoi scaricare dal coso lì, dal sito della Kenwood o da qualche altro sito, cerchi controllo remoto o controllo radio TS2000. Che lo toglie fuori. La cosa di bello che c'è con la radio è che, a parte le uscite bellissime dietro, dove c'è la CC per intenderci, quindi per la trasmissione dei dati che riceve in maniera stupenda, fatto molto bene col TNC, c'è anche la possibilità, se uno prende cacciavite, insomma, si mette a armeggiare, di collegare una frequenza intermedia che ha 12 kHz direttamente alla cosa del computer lì, e ti dà la capacità di ascoltare con un programmino che c'è in giro, di ascoltare le broadcasting HF in digitale. Mi ricordavo che facciamo un lavoro eccellente, tutto bello bello, le sentivi, uno rimane a bocca aperta quando sente quella radio. Purtroppo non so perché trasmettono a orari rispetto alle stazioni, diciamo, broadcasting analogiche. Ma la schermata del 2000 cosa ti appare? Parliamo della versione standard o dipende dal software che ci metti? sì, ce ne sono anche vari, credo che si possa gestire anche con altri programmi, però il suo originale, se non ricordo male, c'è un manopolone tipo quello che è per l'appunto, da cui vai a destra, a sinistra, lo giri, poi c'ha VFO, insomma tutti i comandi che ci sono presenti nella radio, le memorie, è una gestione abbastanza spinta, dai. Ma diciamo, se tu monti quel programma SDR Sharp, per fare un esempio, è compatibile con quel tipo di radio che stiamo parlando, dove c'è l'analizzatore di spettro, la cascata, eccetera, eccetera, o non c'ha niente a che vedere? Allora quello lì in teoria lo potresti collegare con tutti i limiti, ovviamente, di passaggio di banda nell'uscita CC, uscita dati, e di lì riesci a vedere sicuramente con quel programma lì qualche cosa, tenendo sempre presente che oltre 1200, cioè 1200 nel senso di velocità, quelle porte non vanno, capito? Dovrebbero avere all'interno un modem che ti permette anche la ricezione fino a 9600. Adesso non so quello lì se ce l'avevo o meno, perché l'apparecchio non è proprio giovane, all'epoca si usava il 1200 per il packet, tante altre cose, però di cosa già se ne può ascoltare, non è che siano tutti a 9600, anzi sono pochi servizi su quella banda, perché normalmente li fanno in VHF, però si possono fare tante cose. No, interessava capire come viene la pagina, diciamo, il display, cioè riportato su computer. Guarda, immaginati adesso a grandi linee il frontale del TS2000 è ingrandito di parecchio, con dei numeri grandi grandi sullo schermo, dei pulsanti visibili, è una radio che ubbidisce proprio in maniera corretta a tutti i comandi. Puoi usare una seriale, dato che la seriale è, come ti dicevo, abbastanza vecchia, non tutti ci ce l'hanno, all'apparecchio ci metti la seriale e utilizzi quelle seriali con versione USB, che le vanno molto bene. Portarlo in USB, da seriale o USB? Sì, soprattutto se devi usare un portatile moderno, un computer moderno, che seriali non le trovi neanche a balla. E quindi la seriale USB è un semplice oggetto che ce l'hanno i cinesi, va benissimo, guarda, costa 35 euro, una cosa del genere, che è sempre meglio avere quando ci sono di mezzo due seriali. Sì, sì, no, quello sicuramente è una connessione più moderna, perché io sono un vecchio Acer che ce l'ha la RS232, la connessione seriale vecchia generazione, diciamo. Sì, sì. No, non mi ricordo, perché c'erano due programmi, un programma era per salvare le memorie, che gestiva le memorie, ma di lì credo che lo faccia anche CIRP, come si chiamava il programma, un po' tutto, una cosa del genere, però c'era l'originale del 2000, vediamo se è rimasto qualche cosa nei miei schiavi, vediamo, aspetta anche qua. Tu c'hai qualcosa perché di questa radio che stiamo nominando? Se non li ho tolti forse dovrei avere il computer nuovo, e non mi ricordo se già la radio era in dismissione. Vediamo un po', aspetta, la banda smaccata da particolare, e così ti dico subito il nome del programma, che è veramente scaricabile, qua c'è un'immagine, che ce ne sono tantissimi, c'è quello di verde, il ricevitore digitale, è abbastanza una, da, qua non c'è tutto, ti posso dire il nome, veramente tanta un'altra cosa. Sì, ma c'hai, tu il programma si può scaricare direttamente semplicemente o è complicato? Cioè magari ti danno una versione quella free che magari è limitata. Non mi ricordo che c'era una password, però è una password libera, capito? Non ho capito infatti perché ce l'hanno messa. Allora, ma tu l'hai usata anche in remoto come Marco, addirittura mi ha detto che lui la utilizzava quando sono arrivato su fuori il continente col cellulare, trasmetteva la col cellulare da casa sua. Sì, sì, si può fare, sono vari programmi, può fare tutto, tutto, peccato che ci voglia il tempo, e il tempo è tirano, guarda, è addirittura nel sito del Kenwood. Allora, TS990, TS700, TS80, 480, TS2000, c'è l'update ma quello già datato. Ecco, c'è MCP2000 versione 1.0 dal 2012, ovviamente perché la radio è di quel periodo, che ti serve per il controllo delle memorie, e questo è utile nel caso di rifare. Poi c'è il controllo radio control program, che è la RCP 2000 versione 1.20, sempre da febbraio 2012, dal sito Kenwood. Ma questi ce li hai tu o li stai guardando da internet? No, ti ho detto dal sito Kenwood, sono ancora lì, non viene toglierli, perché se poi questa radio c'è già scritto fuori produzione, e quindi magari sai, se li tolgono e poi tocca faticare a trovarli. Quindi vai sul sito kenwood.com, prodotti PS2000, e ti apposto. Facciamo un attimo di bianco, vediamo chi vuole entrare, attenzione 10, avanti con la buona sera che vuole entrare. Tulla, vai ancora tu Gianfranco. E devo dire che per quello infatti la fine è abbastanza, abbastanza seria per quello che sono, tutti i programmi, tutti i cosi, rispetto a alcuni che ti fanno pagare pure il programma per le memorie. E mentre la fine è abbastanza, abbastanza generosa. Poi c'è anche il sito di un radioamatore che è il Z7QEB, in cui c'è anche qua un po' di gestione, e poi c'è anche altre cose che guardate un po'. Mentre ormai con quella nuova generazione, per dire 7003 e tutta quella roba lì, quello è molto più semplice, attacchi direttamente e vai. È vero, diciamo USB e va direttamente, sono di un'altra concezione, sono più, come dire, proprio se mi trovi abitato a 7003, il 7003 è un apparecchio SDR già, è una nuova tecnologia, ma oramai dappertutto c'è l'SDR. Io stavo consultando anche gli apparati della Leonardo, tutti SDR, tutti, perché non hanno problemi di future espansioni, capito? Essendo controllata dal software, ci sbatti dentro un nuovo aggiornamento e magari ti dà nuovi sistemi di popolazione, nuovi filtri e così via, capito? Con quel sistema si possono fare tante cose in più. È come un po' successo con i ricevitori satellitari, quelli Linux, che li potevi aggiornare via software, potevi mettere tutto quello che volevi a seconda degli aggiornamenti, non erano limitati come quelli, diciamo, cosiddetti di vecchia generazione analogici, erano limitati a quello, il software non potevi intervenire. Con questi Linux potevi fare, ampliarli come un computer, naturalmente entro i limiti della capacità di gestione dell'apparecchio. Beh sì, magari proprio Linux è un po' limitato, purtroppo, non perché sia un sistema che non va bene, ma perché è un sistema che roba rispetto a quello che può avere Windows, perché Windows secondo me tutta la radio di un certo livello la fa da padrone, e quindi siccome le case giustamente pensano che tutti ci abbiano Windows, in effetti tutti hanno Windows, li predispongono tutti per quel sistema operativo, capite? Quindi che vuol dire che a posto di diventare pazzo a scaricarti i drive giusti per una radio, di lì vai con Windows, attacchi, se lo riconosce subito, magari ti c'è questo nome della radio e sei già pronto a operare senza particolari problemi. Con Linux è tutto un altro paio di maniche. Sì, sì, è come lo stesso discorso dei host della cosa, della Apple, lo stesso discorso. Adesso piano piano anche di lì stanno entrando i programmi, ma prima erano molto limitati, anche se la qualità sulla grafica e sulla videografica erano al top. Però io mi ricordo qualche anno fa, adesso non lo sto più seguendo, quando sono usciti i ricevitori, io parlo satellitari, per ricevere satellitari, quando c'erano c'erano e ci sono ancora i sistemi di codifica, con quello lì entravi tu direttamente all'interno del coso, del software, e la mettevi tu. E il discorso prima aveva bene una cam per l'Enagravision, una per il letto, una per l'NDS, diciamo per ogni genere doveva avere una cam, mentre lì lavora ovviamente un programmatore. Infatti quando c'erano i canali per TV, diciamo, a pagamento, di lì qualcuno, c'erano degli emulatori di cam, e riuscivano i professionisti a entrare nella criptatura della televisione che trasmetteva, utilizzando il computer di bordo dell'apparecchio. Sì, tu ti riferisci a quelle famose schedine che si inserivano direttamente, che tra l'altro erano abbastanza semplici, contenevano un PIC, che non è altro che un microprocessore di memoria. Caricavi il solito file, lo buttavi dentro e andava, ecco, questo quando c'erano le schede. Poi sono arrivati quelli un pochettino più moderni, sempre lo stesso sistema, però c'era tutto dentro, e quindi non facevi altro che buttarci il file magico, e per miracolo si apriva tutto. Poi per limitare la cosa hanno dovuto scomodare anche il Mossad per farle il programma diciamo di criptatura ad altissimo livello, per evitare queste cose. Ma mi sa che a quell'epoca c'era sempre qualcuno che si pensava per darle fastidio. Duravano molto meno le programmazioni, perché quando poi se ne accorgevano, perché tutti si vantavano qua e là, ovviamente quelli ogni, non dico ogni giorno, ma anche due volte al giorno, tre volte al giorno, cambiavano i codici perché avevano riflettuto a capo. Sì, davvero, tu stai parlando ancora prima, no, io parlo del passo successivo, quando successivamente c'era già Sky e coso che trasmettono un altro discorso, che lì ci vuole proprio la cam con quel tipo di criptatura, e la Gravision per dire, cosa del genere, mentre lì ci avevano il solito erdetto, semplicissimo, mettevi quelle schede col PIC, come stai dicendo tu, cioè prendevi i codici di accesso e entravi. No, io sto parlando eliminando il computer di bordo, cioè l'accesso per infilare una scheda, e automaticamente scheda non era neanche di scheda, perché quello entrava direttamente all'interno del processore del ricevitore, e lavoravi di lì, caricavi via computer quello che ti interessava, i codici, andavi e faceva l'emulazione di una cam, le vecchie cam che c'erano prima, mentre qua ce l'avevi già all'interno del processore, per dire l'apparecchio, per dire c'erano 2000 canali, no, lo volevo far diventare 10.000 canali, entravi sul software e ti modificavi la quantità di canali, per dire mi interessa vedere il misuratore di campo per installare l'antenna, e ti mettevi di lì, ti portavi tutte le funzioni che volevi, tu era un ricevitore aperto. Poi non ne ho più sentito parlare, perché c'era questa ditta tedesca, costava anche un po' quel ricevitore, però era il topo del topo, perché era un ricevitore che potevi aumentare le caratteristiche, le prestazioni a secondo del tuo pacimento. Sì, lo so benissimo. Diciamo che quel file io li prendevo e li buttavo dentro direttamente all'apparecchio, senza tanti giri, stiamo parlando della stessa cosa. Io me li sono fatti tutti, tieni presente quei tempi, sono fatti periodi in cui bisognava fare la scheda in vetroresima. poi cioè in retroresina, va in retroniste. Poi ho passato il periodo in cui sono spariti i PIC e sono iniziati i POC, cioè quelli compresa dietro il pancino dal decoder, la qui quella, computer, via, facevi tutto quello che volevi. Adesso, nei tempi attuali, oramai non so neanche se, sì, so che ci sono ancora le trasmissioni satellitari, però con l'avvento di internet, se ce la diciamo tutta, la cosa è molto meno impegnativa. Sì, se uno ha un buon computer, diciamo, di grandi prestazioni, ci intende un po' di programmazione, poi prende una carta ufficiale, fanno così, prendono una carta a un momento ufficiale, cioè, e si scaricano tutti i file e te lo rimandano dentro a te. Bisogna stare attenti perché ti dice anche un sistema particolare che di autodistruzione, diciamo così, se tu la fai con una carta originale che ti danno loro, è molto probabile che se senti la clonazione venga distrutta. Allora, io conosco il Runo addirittura, non so, quando c'era Telepiù, ti ricordi Telepiù 1, 2, 3, poi Telepiù bianco, grigio e nero, ti ricordi? Sì, ma stiamo parlando di... Allora, c'era, quando tu ti facevi un abbonamento, ti davano delle cose proprio alla pressuria, guardati confronto a quelle di adesso, e quando attivavi l'abbonamento ti davano un segnale via radiofrequenza, tac, che ti attivava il coso. Questo qua lo faceva, lo registrava, questo segnale, con un videoregistratore, perché ti diceva, entro 4 ore, entro 5 ore, adesso non mi ricordo entro che limiti di orario, loro ti mandavano questo segnale a campione per coso. La cam interna, questo se li registrava e poi se li ripassava negli altri ricevitori. Sì, poi bisogna vedere quanto durava la cosa, e comunque ripeto, questa ormai è storia passata, poi ha preso piede in maniera prepotente.